Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque, dopo aver ieri affrontato in maniera un po' più in chiave un po' più storica le cause di questa crisi finanziaria americana e da dove prende piede anche a livello di approccio politico, oggi torniamo sulla cronaca della giornata, perché come avevamo anticipato anche ieri sono usciti tutti i dati diffusi da Eurostat, quindi l'Agenzia Europea di Statistica, sull'andamento del PIL, delle economie dei vari paesi dell'area euro. E allora i dati di oggi riguardano il quarto trimestre del 2008 e quindi permettono poi di dire anche e di dare anche il dato definitivo sull'anno che si è da poco chiuso. Meno 1,5% il livello della recessione in Europa nel quarto trimestre. Su base annua, quindi 2008, intero 2008 rispetto al 2007, l'area euro ha fatto un meno 1,2%. La Germania è il paese dove la recessione si è fatta sentire in maniera più forte, meno 2% l'ultimo trimestre su quello precedente, quindi congiunturale, ma a livello di anno la Germania fa un più 1% nell'intero 2008. Il calo del 2,1% da un trimestre all'altro è il più forte, si chiama congiunturale, a livello tecnico è il più forte dal 1987 in Germania ed è peggiore di ogni stima degli analisti, che si aspettavano una flessione dell'1,8%. Molto male in Germania le esportazioni. E appunto rispetto all'anno prima la Germania fa un meno 1,6, in tutto il 2008 la Germania è cresciuta dell'1%. C'è un solo paese purtroppo che anche nel 2008 ha il segno meno ed è l'Italia, meno 0,9%. Il nostro dato quarto trimestre 2008 sul terzo trimestre 2008 è di un meno 1,8%, insomma noi siamo il paese che, anche se si guarda il confronto tra l'ultimo trimestre del 2008 e l'ultimo trimestre del 2007, il tendenziale è meno 2,6%. Siamo quelli in cui il calo del PIL è stato più forte in tutta l'area euro. La Francia ha avuto anche lei il segno meno nel dato trimestre su trimestre, la Spagna, la Gran Bretagna meno 1,5%, la Spagna meno 1%, però appunto a livello anno su anno solo l'Italia dei grandi europei ha il segno meno. L'Olanda entra tecnicamente in recessione, queste sono altre notizie diciamo più così marginali rispetto ai dati che ricordavo. Di questo parleremo nell'apertura del programma come dati europei e poi anche nella seconda ora, perché nel frattempo oggi c'è stata la conferenza stampa, come ricordavo, il nostro GR del Presidente del Consiglio, del Ministro Sacconi, e si è trovato un accordo sull'utilizzo dei fondi europei alle regioni per integrare la cassa integrazione e guadagni, i cosiddetti ammortizzatori sociali, e anche di questo parleremo. Altro tema di questa giornata riguarda l'ENI, che ha fornito a Londra i suoi dati annuali e anche sul trimestre, l'ultimo trimestre 2008. Comunque a livello annuale l'ENI vede l'utile salire del 7,7% a 10 miliardi 200 milioni di euro. La cedola, ossia il dividendo per gli azionisti, sarà complessivamente di 1,30 euro per azione, identico a quello del 2008, questo è per quello che riguarda il 2009, di cui 65 centesimi già distribuiti a titolo di acconto. Ancora cresce la produzione per l'ENI del 3,5% e nel 2012 dovrebbe superare i 2 milioni di barili al giorno. L'ENI, essendo partecipata complessivamente per il 30% dal tesoro, 20% il tesoro, 10% la cassa depositi e prestiti, staccherà al Ministero dell'Economia una cedola, appunto come azionista il Ministero prende anche lui i dividendi, di 2 miliardi di euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria partendo dalla borsa. borsa che si avvia a chiudere la settimana in leggero recupero a Milano, più 0,5% l'S&P MIB, più 0,8% il MIBTEL. Bene Parigi, più 1,5%, Francoforte più 0,3%, Londra più 0,3%, l'America in questo momento è invariata, euro a quota 1,29 sul dollaro e a quota 89 pence sulla sterlina britannica. Tra i titoli, chi va particolarmente male oggi, Snam Rete Gas perde il 4,80%, Seat di nuovo non arresta il suo calo, perde un altro 4,5%, la Popolare di Milano perde il 4%, UbiBank al 3,3%, Alleanza al 3%, Banco Popolare meno 2,3% come Unicredit, A2A perde il 2% come Terna. Guadagna e anche molto ST Microelectronics più 4,80%, Telecom Italia più 4,7%, Geox più 3,5%, Eni più 2,7%, Tenaris più 2,5%, Finmeccanica più 2,1% e in rialzo dell'1,8% sono anche Parmalat, Impregilo e Luxottica. Resta molto basso, per fortuna diciamo noi, il prezzo del petrolio a $34,4 al barile. L'Euribor, il tasso interbancario di riferimento per calcolare le rate dei mutui e dei prestiti, continua a scendere, scende al minimo storico da quando esiste l'euro, ossia siamo all'1,94%. E ricordo che lo scorso 10 ottobre l'Euribor invece toccò il suo massimo storico quando arrivò al 5,4%, quindi praticamente in tre mesi l'Euribor ha perso, tre mesi ha perso più di tre punti percentuali del 3,3%. Il diario della crisi, licenziamenti anche per Air France KLM, dai 1.000 ai 1.200 posti di lavoro nel 2009, non saranno veri licenziamenti, in realtà si tratterà di mancate sostituzioni di persone che vanno in pensione e del blocco delle assunzioni. Comunque il numero di dipendenti si ridurrà da 1.000 a 1.200 unità, anche perché nell'ultimo trimestre 2008-2009, il terzo trimestre 2008-2009, Air France KLM ha chiuso con una perdita netta di 500 milioni di euro, mentre il fatturato è rimasto stabile a 5,9 miliardi, quasi 6 miliardi. Il risultato di Air France KLM è peggiore di qualunque stima degli analisti. Nel frattempo continua anche la campagna promozionale, visto che parliamo di trasporto aereo, di Air Italy, che potenzia la sua flotta. Un nuovo Boeing 737 che porta 12 il numero di aerei complessivi, verrà utilizzato sulle rotte domestiche e tra l'altro in occasione di questa nuova acquisizione di un aeroplano Air Italy lancia una campagna promozionale sulle rotte Verona-Roma, Fiumicino e Torino-Napoli. Per la precisione Torino-Napoli andata e ritorno a 87 euro e Verona-Roma andata e ritorno a 97 euro. Le immatricolazioni auto come d'attese, male in Europa, meno 27%, l'Italia già il dato riuscito meno 32%, il gruppo Fiat meno 27% in Europa, quindi in linea assoluta con la media, però cresce, visto che calano di più gli altri concorrenti, cresce la quota di Fiat in Europa, è all'8,8% come gruppo, quindi con tutti i marchi, e ha superato in questo modo nella classifica dei costruttori europei sia General Motors che Renault. Fiat diventa a questo punto come gruppo il quarto produttore quanto a quota di auto in Europa. E nel frattempo anche la Spagna ha approvato un piano di salvataggio per il settore automobilistico da 4 miliardi 200 milioni di euro, più del doppio di quello approvato dall'Italia e dalla Germania e anche dalla Svezia. Dopo la Francia, infatti, è la Spagna a avere il piano più forte. La Francia ha stanziato complessivamente per l'auto 6 miliardi e mezzo, la Spagna 4 miliardi, la Gran Bretagna 2 miliardi e mezzo e poi Italia e Germania 2 miliardi ciascuna. Gli effetti della crisi sull'economia reale per lo più devono ancora arrivare, lo ha dichiarato oggi il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn. e ha detto 2009 sarà certamente un anno cattivo per la crescita, ma per tutte le economie, non solo per quelle avanzate, anche per quelle emergenti. Ringraziamo Strauss-Kahn per questa ventata di ottimismo il venerdì. Fa piacere sapere che l'effetto della crisi sull'economia reale deve ancora arrivare. Noi speravamo invece fossero già questi gli effetti. E visto che deve ancora arrivare, immaginiamo cosa potrà essere. Quindi entriamo nel primo tema della puntata. Italia in recessione, Europa in recessione. Tecnicamente non si può dire per tutti i paesi, però l'Olanda oggi si è aggiunta alla lista di paesi in recessione. Ripetiamo, se si guarda come è andato l'ultimo trimestre del 2008 rispetto a un anno prima, l'ultimo trimestre del 2007, il segno meno c'è dappertutto nelle principali economie. In media in Europa è meno 1,2, l'Italia però è tra i segni meno quella che ce l'ha più pesante, come ci racconta questa scheda. Da 9 mesi l'economia italiana sta distruggendo ricchezza invece di crearne, e lo sta facendo con una velocità superiore a quella degli altri paesi europei, ad eccezione della Germania. Il calo del PIL dell'1,8% registrato negli ultimi 3 mesi del 2008 rispetto al trimestre precedente è il peggiore da almeno il 1980, anno in cui sono iniziate le serie storiche dell'Istat. Una pessima chiusura d'anno che porta a meno 0,9% il risultato dell'intero 2008, ma che soprattutto ci fa affrontare il 2009 di rincorsa e con il fiatone. Infatti, a causa del cosiddetto trascinamento, se nel corso dell'anno non ci fossero variazioni nella crescita, i 12 mesi si chiuderebbero comunque con un calo di quasi il 2%. Peggio di noi ha fatto la Germania, dove nell'ultima parte del 2008 il PIL è arretrato del 2,1% rispetto al trimestre precedente. Uno scivolone causato soprattutto dal pessimo andamento di export ed investimenti, con un'economia tedesca che è riuscita così a superare in negativo anche le già pessimistiche previsioni. Non si sono salvate Inghilterra e Spagna, due paesi accomunati dalla brusca discesa dei prezzi delle abitazioni e da un deciso aumento dei disoccupati. Negli ultimi 3 mesi del 2008, Londra ha patito un calo del PIL dell'1,5% rispetto ai 3 mesi precedenti, mentre a Madrid la flessione è stata dell'1%. Chiusura d'anno negativa dell'1,2% infine per la Francia, l'economia europea che sino ad ora ha retto meglio l'impatto della crisi e che archivia comunque l'intero 2008 con una crescita dello 0,7%. E in effetti la Francia è l'unico paese in Europa a non essere tecnicamente ancora in recessione. Il dato sull'intero 2008 è buono anche in Spagna, più 1,2%, ma poi anno su anno anche la Spagna un meno 0,7%. Insomma, possiamo dire che al di là della Gran Bretagna, che poi nemmeno rientra nell'area euro, ma e della Germania e dell'Italia, insomma, Francia e Spagna ancora devono vedere un calo molto molto forte nel PIL. La notizia più forte mi sembra quella riguardante la Germania, e poi vorrei passare anche ai temi di casa nostra. Ecco perché ringrazio per averci aggiunto in collegamento il professor Alberto Quadro Curzio, che è preside alla Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera professore. Buonasera. In maniera inversa, cioè partiamo dall'Italia e poi arriviamo anche alla Germania, perché oggi hanno commentato questi dati vari esponenti politici di governo e opposizione, a partire dal presidente del Consiglio Berlusconi, che nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, poi arriveremo anche all'accordo sugli ammortizzatori sociali, però ha detto: siamo preoccupati. Siamo arrivati alla bella somma di 8 miliardi destinati agli ammortizzatori sociali ove ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo che non si debba arrivare ad avere bisogno di tutta questa somma. Quindi l'accordo raggiunto riveste una particolare importanza, perché sancisce un livello di collaborazione che fino a questo punto non si era mai visto, e anche il principio che le responsabilità bisogna assumerle congiuntamente tra i diversi livelli istituzionali di fronte soprattutto a una situazione di crisi come quella in atto. Le istituzioni quindi, da un lato noi, il governo e le regioni, credo abbiano dato davvero un'ottima prova di sé e hanno anteposto ad ogni difficoltà, le difficoltà esistono sempre, quella necessità che è apparsa a tutti evidente di fornire delle risposte concrete ed immediate a quanti più direttamente sono potranno essere colpiti dalla crisi. Quindi do atto del grande senso di responsabilità alle regioni per la responsabilità che hanno mostrato a misurarsi insieme con noi nel tentativo di avviare a soluzione i problemi dell'occupazione che sono stati generati da questa crisi che ha delle dimensioni che non sono ancora del tutto definite, ma a cui dobbiamo guardare e guardiamo con preoccupazione. E i soldi a cui Berlusconi faceva riferimento, la somma di 8 miliardi, ripeto, ne parleremo nella seconda ora del programma, riguarda i fondi complessivamente destinati agli ammortizzatori sociali, quindi cassa integrazione in primo luogo, qualora ve ne fosse bisogno. Il riferimento alle regioni del Presidente del Consiglio è dovuto al fatto che le regioni daranno 2 miliardi e 600 milioni complessivamente che leveranno dai fondi europei per le aree sottoutilizzate e altri fondi europei. Lo Stato invece metterà gli altri 5 miliardi e 400 milioni. Risponde però alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Berlusconi il leader del PD Walter Veltroni: il governo fa finta di non vedere questa crisi. Il governo fa finta che non esista e non ha nessuna iniziativa di... Noi domani presenteremo il nostro piano, quello che avrebbe dovuto fare il governo lo presentiamo noi, però non c'è neanche il cuore. Vede, la cosa che mi impressiona è che il Presidente del Consiglio viene qui, racconta barzellette, descrive un mondo che non c'è, perché il mondo di questo Paese purtroppo è un mondo di sofferenza, di preoccupazione, di inquietudine che è molto diffusa ormai in tutto il territorio nazionale. È critico verso l'azione del governo anche il leader della CGIL Guglielmo Epifani. Oggi, durante la manifestazione dei metalmeccanici e dei lavoratori pubblici organizzata dalla CGIL a Roma, così ha parlato al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. In tutta Europa e anche in tutto il mondo i governi fanno politiche molto forti attraverso la riduzione del fisco, gli incentivi alle imprese, il sostegno ai redditi dei lavoratori e dei pensionati, una politica industriale, spese per infrastrutture, per la formazione. Il nostro governo no. Allora, possibile che sbagliano tutti? E poi Epifani ha chiesto anche per i prossimi 2 anni di aumentare le tasse sui redditi superiori ai 150.000 euro, utilizzando quel 1,5 miliardi in più che arriverebbe per i redditi più poveri, senza che per questo vi sia della lesa maestà. Professor Quadro Curzio, allora, al di là dello scambio, diciamo, tra governo e opposizione e poi la CGIL, vorrei partire dall'Italia però poi arrivare anche alla Germania, che è così... trovo l'elemento forse più preoccupante. Il 2008 si è chiuso per l'Italia con il segno meno 0,9. Siamo l'unico paese che ha il segno meno, nel senso che se si guarda il tendenziale, cioè il trimestre 2008 sul trimestre 2007, ce l'hanno tutti il segno meno, e l'Italia comunque è quella che ce l'ha più forte, meno 2,6%. Però se si guarda l'intero 2008, l'Europa ha fatto più 0,7, la Germania più 1, la Spagna più 1,2, la Francia più 0,7, la Gran Bretagna più 0,6, noi meno 0,9%. Vuol dire che partiamo già deboli? Certamente, guardando i dati sotto il profilo statico, partiamo più deboli, e tuttavia se noi guardiamo un po' più a lungo termine, ci rendiamo conto che altre economie che per adesso hanno accusato meno caduta del PIL non avranno certamente un 2009 bello o migliore di quello dell'Italia. Tra queste vorrei citare due economie che erano sempre state presentate come molto dinamiche, aggressive, tant'è che furono denominate tigri, quella irlandese e quella spagnola, per le quali si prefigura un 2009 direi molto negativo. Due dati: per la Spagna il tasso di disoccupazione è preventivato addirittura un 19%, a fronte di un tasso di disoccupazione italiano che se le previsioni non saranno stravolte andrà all'8,7, al 9%, e l'Irlanda avrà un calo del PIL di 5 punti percentuali, cosa assolutamente gigantesca. Certo, noi soffriamo anche di una crescita molto più lenta degli anni precedenti, causata, non dimentichiamolo, da esigenze di controllo della finanza pubblica che sono necessarie a causa del nostro debito. Quindi non è così facile per l'Italia fare delle politiche molto aggressive dal punto di vista della spesa pubblica, in quanto abbiamo un gravame di debito su PIL, tutti lo sappiamo, che è al 105 e nelle previsioni salirà al 110 l'anno venturo. Ed ecco perché, per inciso, la Francia può spendere 6 miliardi e mezzo per il settore auto, la Germania ha fatto un piano enorme per le banche, 80 miliardi se non ricordo male, e per rilanciare l'economia noi dobbiamo accontentarci dei 5 miliardi, forse 6, del pacchetto anticrisi, a cui poi si sommerebbe anche il miliardo e mezzo per le auto. Cioè, i conti pubblici non possono saltare, ma non tanto per paura dell'Europa, lo dico a chi scrive, sono le agenzie di rating che ce la farebbero pagare, cioè diventerebbe sempre più difficile rifinanziare il nostro debito in un periodo in cui tantissimi paesi, Germania, Stati Uniti in testa, ma anche Gran Bretagna, vanno sul mercato a chiedere prestiti attraverso obbligazioni, titoli di Stato. Professor Quadricurzio, l'altro aspetto della domanda e dei dubbi che vedo anche passare al 349-238-6666 riguarda l'atteggiamento. Allora, c'è chi dice, è colpa della stampa che enfatizza la crisi, il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Dominique Strauss-Kahn ha detto la crisi deve ancora mordere, deve ancora scatenarsi sull'economia reale, noi speravamo l'avesse già fatto. Secondo lei, al di là di qualunque giudizio politico, io so che lei non è schierabile da nessuna parte, ma è corretto che un governo dica vabbè, invochi un po' di ottimismo? Ricordo 2-3 settimane fa il Presidente del Consiglio disse vabbè, ma se anche perdiamo il 2% nel 2009 si torna indietro di 2 anni, non si stava così male nel 2007-2006, oppure cioè è più... per risolvere la crisi è meglio mettere tutto sul tavolo e dire la situazione è pesante, come oggi Berlusconi sembra aver fatto? Ma la domanda è certamente molto difficile, perché da un lato bisogna rappresentare la situazione come essa è, la situazione è certamente complessa e difficile, anche se devo dire che non mi rallegrano le affermazioni del Fondo Monetario, che da una situazione che peraltro vede questa grande istituzione piuttosto assente dalla scena monetaria e finanziaria, adesso ci rappresenta sempre a tinte fosche il futuro. Forse farebbe anche bene a dire che cosa essa stessa intende fare per evitare che questo futuro sia così serio, così complesso e così preoccupante. Sì, diciamo che di istituti di ricerca ne abbiamo già abbastanza, il Fondo Monetario dicesse almeno, visto che la crisi economica deve ancora scatenarsi, che cosa vuole fare con i soldi che ha, e non sono pochi, invece che raccontarci che andrà lei ancora peggio. Ha dato una rappresentazione assolutamente condivisibile. Di istituti di ricerca ne abbiamo tanti, forse anche bravi quanto e meglio del Fondo Monetario, che il Fondo faccia il suo mestiere, perché le risorse anche le ha, ivi comprese delle risorse auree disponibili non indifferenti. Detto questo, io credo che l'Italia faccia bene a prendere atto, e i governanti devono dire come stanno le cose, ma credo anche che probabilmente per taluni versi stiamo meno peggio di altri, perché il nostro sistema bancario è ben vero che necessiterà un qualche sostegno, ma non tanto perché esso è debole in sé, quanto perché altri paesi, intervenendo a sostegno del sistema bancario pericolante, hanno alterato le condizioni di concorrenza. Ed ecco dunque che quando vanno ad alzare, uso un termine forse un po' pesante ma al quale ho riflettuto, quando vanno altri paesi ad alzare artificiosamente i requisiti di patrimonializzazione delle banche, alterano le condizioni di concorrenza. Certo, loro dovevano farlo perché le loro banche erano sull'orlo del disastro, noi non dovevamo farlo perché non siamo sull'orlo del disastro, ma adesso in qualche modo dobbiamo intervenire per ripareggiare la situazione di mercato. Detto questo, segnalerei un altro aspetto, che i consumi italiani soprattutto i consumi, diciamo così, correnti, non sono crollati e probabilmente le misure prese, per quanto limate, potrebbero dare un certo impulso ai consumi stessi. Quindi la situazione italiana è difficile, soprattutto perché abbiamo questo drammatico debito pubblico. Forse stiamo un po' meglio di altri paesi, anche perché abbiamo il tessuto delle piccole e medie imprese che, se avessero un filino più di aiuto dal credito, a mio avviso potrebbero anche fare qualcosa. Lo dica a noi, professore, che stiamo andando avanti da mesi nel ricordare, ogni tanto le banche si arrabbiano, che non è corretto chiudere il credito per errori fatti della divisione investimenti, investment banking, chiudere il credito alle imprese. La abinega, però noi riceviamo sms di imprenditori che hanno maggiori difficoltà, riceviamo anche sms e email di dipendenti di banca e direttori di filiale che dicono, qui non, sicuramente non farò nomi, che dicono: guardate che noi invece abbiamo ricevuto questa indicazione dalla casa madre, per cui vabbè, non è che posso andare avanti sempre con sta battaglia, però ogni tanto sarebbe bello anche essere ascoltati. Vabbè, professore, adesso ho la pubblicità e il meteo, poi vorrei capire per concludere quanto preoccupante invece è il dato tedesco, perché insomma l'Italia frena. Ho già capito dal suo ragionamento che dire che un meno 2% significa andare al 2007, dal punto di vista dell'economia non ha molto senso, perché sennò allora uno potrebbe dire che se perdiamo il 40% del PIL in un anno andiamo agli anni 60, dove non si stava neanche così male, lo abbiamo detto altre volte, c'era la minigonna, il boom italiano, però non funziona così quando c'è il segno meno. Altra cosa invece è chiedere l'aiuto di tutti. Di nuovo in diretta alle 17.39 minuti con Sebastiano Barisoni per commentare questi dati complessivi del 2008 dell'economia. Mai così male il PIL italiano da 15 anni a questa parte. Io lo so che sono mesi che parliamo di notizie negative, ce la stiamo mettendo tutta a trovare anche altri elementi, però se poi il dato è questo, uno deve anche confrontarsi con il dato, lo dico chi scrive al 349-238-6666, era 15 anni che l'Italia non faceva un meno 0,9%. E professor Quadricurzo, il 2009, se va bene, si chiuderà con un meno 2. Sarebbe già un successo, paradossalmente, perché oggi il centro, lo so, però sa. E oggi tra l'altro il Centro Studi Confindustria fa notare come proprio questa flessione, in realtà la flessione, diciamo, della produzione industriale e di quella che rischia di essere poi l'anno 2009, la flessione della produzione industriale è la più forte dal dopoguerra, cioè dal 1946. Per cui al 17%, insomma, una cosa mai vista. Allora, veniamo alle misure che chiedono molti ascoltatori. Intanto hanno subito scritto altri direttori di filiale dei principali gruppi bancari italiani confermando che l'indicazione è di stringere il credito, aumentare gli spread, addirittura scrive un direttore di filiale di 3 volte. Quindi, per favore, l'invito al sistema bancario, alle grandi banche, di non strangolare le piccole e medie imprese che non hanno responsabilità e che sono solvibili, non certo quelle a rischio. Che cosa può fare a questo punto il governo? Quali fondi può utilizzare? Visto che la Germania, in frenata più brusca del previsto, non lascia ben sperare sul nostro export in Europa. Ma certamente il dato sulla Germania per noi è molto negativo, perché, come ben noto, noi esportiamo verso la Germania non solo beni di consumo durevoli e beni di consumo non durevoli, ma esportiamo anche strumentazione, che sono poi elementi componenti della meccanica tedesca, la quale meccanica tedesca, in senso lato, teniamo conto, sta risentendo di un contraccolpo cinese non indifferente, perché è ben vero che la Cina ha messo in atto o sta per mettere in atto un grandissimo piano di spesa pubblica, ma è altrettanto vero che la Cina sta facendo fior di protezionismo adesso, tant'è che molte imprese faticano sempre di più a esportare verso la Cina. Ed ecco dunque che il contraccolpo, sappiamo che la Germania era fortissima esportatrice verso la Cina, ebbene stanno rallentando le esportazioni verso la Cina. Il contraccolpo cinese arriva anche sull'Italia. Sotto questo profilo io credo che l'Europa debba svegliarsi, evitando in tutti i modi forme di nazionalismo interne, ma riflettendo un attimo non per fare del protezionismo verso l'esterno, ma quantomeno per avere delle condizioni di simmetria e non di asimmetria, perché altrimenti credo che la situazione europea, tra capacità di iniziativa molto limitata delle istituzioni europee, stati nazionali che fanno del nazionalismo economico, scarsa attenzione a quello che stanno facendo altri stati che purtroppo alzano barriere protezionistiche, non vorrei che l'Europa alla fine della storia, essendo un'area sostanzialmente più sana delle altre, pagasse il prezzo più salato. Sarebbe veramente un paradosso incredibile, insomma. Quindi l'Europa si svegli un po'. Un paradosso spiegabile però, professore, con così certe mire di breve periodo della sua classe politica, perché è chiaro che la Germania non ha voluto, dico adesso in estrema sintesi, non ha voluto un piano europeo di salvataggio delle banche perché aveva il timore, voleva salvarsi per i fatti propri, ha messo 100 e passa miliardi suoi. Ancora la Gran Bretagna, la Francia sta alzando barriere protezionistiche sull'auto, la Germania non ha voluto il piano europeo di investimenti in infrastrutture, insomma, fine. L'unica soluzione per noi potrebbe essere quella degli cosiddetti eurobond, un piano complessivo di grandi opere. Io di questo sono convinto sempre di più, e l'esempio che dava lei prima, che poi non è un esempio ma una rappresentazione dei fatti, che ciascuno di questi paesi crede di cavarsela per conto suo, nuotando con un salvagente, quando potrebbe stare su una barca remando con tutti gli altri e certamente arrivare prima a spiaggia, ebbene credo che la strada degli eurobond sarebbe importantissima. Tra l'altro non è un'invenzione dei giorni nostri, perché Jacques Delors nel 1992, nel suo famoso libro bianco, proponeva questa strada e la enfatizzava come necessaria anche per rendere il mercato interno davvero integrato. Certo, se l'Europa, come ha detto lei, io concordo con lei, non trova questa identità di vedute, ahimè, ciascuno andrà col suo salvagente, ma non va molto distante. Sì, anche perché il nostro salvagente è un po' più piccolo per via del debito di quello degli altri. Grazie all'economista Alberto Quadricuzio Presti della Facoltà di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano. Non se ne può più, dov'è il gufo? Chiedono alcuni ascoltatori, anche un ascoltatore che si firma un operaio normale, non so cosa voglia dire quel normale, però il gufo non c'è perché è depresso oggi, vista la giornata, è afono, non se la sente nemmeno di far sentire la sua voce. Invece, visto che una buona notizia oggi c'è, riguarda l'ENI, il bilancio annuale del più grosso gruppo in Italia, ci colleghiamo con Londra, dove l'ENI ha presentato i suoi dati. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, dacci tu una buona notizia, fai tu l'antigufo, nel senso che l'ENI ha chiuso un 2008 con un utile record. Sì, 10,2 miliardi di euro, nonostante un ultimo trimestre che, come per tutti, è fatto segnare, come dire, una caduta del 27% circa rispetto al trimestre, allo stesso trimestre dell'anno precedente, per l'inevitabile conseguenza sul prezzo del petrolio. Però è stato un anno, appunto, un anno d'oro per l'ENI. E la prospettiva disegnata oggi dall'amministratore delegato Scaroni è quella, comunque, il prossimo quadriennio nel piano strategico, una società attrezzata, forse meglio delle concorrenti, per far fronte a una congiuntura che resta complessa ovviamente per tutti. Le prospettive sul 2012 sono di arrivare a una produzione di 2 milioni di barili al giorno, ho capito bene? Esatto, con una crescita media del 3,5% all'anno. Scaroni ha dato anche indicazioni sull'eventuale prezzo del petrolio che loro stimano, mettono, diciamo, come ipotesi di lavoro? Sì, ha parlato intorno ai $43 a barile per il 2009. Quindi più o meno sui livelli in cui siamo adesso. Grazie anche a Leonardo Maisano, corrispondente sul 24 Ore da Londra, dove l'ENI ha presentato i suoi conti annuali. Buone notizie, sì. C'è la buona notizia che l'inflazione è ai minimi, e questo l'abbiamo dato notevolmente, quanto ad enfasi, che il petrolio è a $34, che soprattutto per i lavoratori dipendenti, ne abbiamo parlato a lungo in una puntata, i lavoratori dipendenti potrebbero vedere un certo recupero del potere d'acquisto, proprio perché con un'inflazione che rallenta tanto, quelli sono salari fissi, per cui così come viene eroso il potere d'acquisto, e lo è stato nel passaggio lira-euro, in questi casi potrebbe esserci un recupero. Se la benzina e il petrolio soprattutto si mantengono così bassi e se appunto l'inflazione continua a non essere preoccupante, qualche cosa lì si dovrebbe vedere. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Giustamente alcuni di voi ricordano al 349-238-6666 che questa sera, con una prima cena di gala, poi domani si entra nel vivo, inizierà il G7 dei ministri economici, cioè i ministri economici dei 7 paesi più industrializzati: Stati Uniti, Giappone, Canada, Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania, non dovrei averne dimenticato nessuno. Sono arrivati a Roma, e oggi il neo segretario del tesoro dell'amministrazione Obama, Geithner, ha già incontrato in un colloquio privato, non ci sono dichiarazioni, il nostro ministro dell'economia Giulio Tremonti. Da lì vedremo se arriverà qualche iniziativa in comune dei G7, anche se così i casi precedenti lasciano piuttosto scettici. Sull'ENI chiedete anche quant'è la cedola che distribuirà. Avete ragione, non l'abbiamo detto. Allora, la cedola è confermata, quindi come quella per il 2007, 1,30 euro per azione, di cui 65 centesimi già distribuiti a titolo di acconto per gli azionisti ENI. E ancora, per quello che riguarda invece l'introito per il Ministero dell'Economia, che è il principale azionista di ENI, ne ha il 30% in tutto, 2 miliardi di euro di dividendi entreranno nelle casse dello Stato. Adesso la borsa con Paolo Paronetto di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Beh, ENI poi ha risentito bene dei dati presentati, più 2,5%, andamento completamente opposto invece per Snam Rete Gas, che è il peggior titolo assieme a Seat, perde 4,7%. Sì, esattamente, ENI ha beneficiato dei conti diffusi in mattinata, di cui avete già parlato, ha chiuso la seduta in rialzo del 2,44%, mentre appunto andamento completamente opposto per Snam Rete Gas, di cui ENI controlla un po' più del 50%, che ha chiuso la seduta tra le peggiori del listino principale con un calo del 4,74%. Proprio ieri a mercato chiuso Snam aveva comunicato i suoi conti per il 2008 e soprattutto il piano di riorganizzazione, per cui la stessa ENI venderà a Snam Italgas e Stogit, creando un colosso delle attività regolate, per finanziare l'operazione Snam Rete Gas lancerà un aumento di capitale da 3,5 miliardi. E proprio questo annuncio, che ha penalizzato nel breve termine i titoli in borsa, che sono stati oggi venduti dagli investitori che invece hanno preferito comprare ENI, che beneficerà anche dal punto di vista industriale oltre che finanziario proprio di questa riorganizzazione. Mentre alcuni ascoltatori ci fanno anche notare che, per esempio, una buona notizia sono i tassi reali vicini allo zero, è vero, il 2% della BCE, con l'ipotesi che li tagli ulteriormente, vuol dire che i tassi sono bassi. Bisogna vedere quello che praticano le banche, ma insomma l'Euribor è al minimo storico da quando esiste l'euro, anche questa è una buona notizia. Ecco perché appunto, soprattutto sui lavori dipendenti, sui lavori salariati, sulle buste paga, potrebbe esserci un recupero di potere d'acquisto, perlomeno insomma la crisi non modere così tanto, visto che i prezzi o sono fermi o addirittura calano in alcuni casi. Ancora il petrolio non è una buona notizia, perché vuol dire che l'economia è ferma. Vabbè, non è che possa sempre essere mezzo vuoto il bicchiere. Un petrolio a $34 è in questo momento una buona notizia, a mio avviso, perché costa meno fare il pieno, pagare il riscaldamento e anche lo spostamento delle merci. Seat pagine gialle, dove arriverà il titolo? Hanno appena raggruppato le azioni da 201, sì. Ma sta tornando, no, di sicuro è una battuta, non ai livelli a cui era prima, ma anche oggi è ormai da una settimana che ne parliamo. Il titolo è stato il peggiore tra le blue chip, ha perso il 5,77%, chiudendo a 7,1 euro. Il bilancio della settimana, cioè proprio da quando è diventato effettivo il raggruppamento delle azioni, è di un calo del 27,5%. Come dicevamo già nei giorni scorsi, il titolo risente dell'incertezza e dopo l'annuncio del prossimo addio dell'amministratore delegato Luca Maiocchi, non si capisce chi assumerà le leve del comando al vertice della società, e inoltre ci sono dubbi sul a quale prezzo verrà effettuato l'annunciato aumento di capitale da 200 milioni. Andiamo avanti ancora. Molto richiesta anche oggi Telecom Italia, più 4,5%. Sì, oggi Telecom è stata una delle migliori titoli della seduta, ha chiuso a 1,052 euro. Sul mercato continuano a circolare le ipotesi, tra l'altro rilanciate anche da ambienti politici, di uno scorporo della rete che secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche figurare tra le proposte del consulente incaricato dal governo Francesco Caio, che presenterà il suo piano tra 2 settimane. L'ipotesi, ricordiamo, è già stata smentita dall'amministratore delegato Franco Bernabè, che l'ha definita superata, e oggi tra l'altro in borsa la borsa ha apprezzato alcune ipotesi rilanciate dal Sole 24 Ore sulla possibilità di della distribuzione di un dividendo da 4 centesimi da parte di Telecom Italia, che è un payout paragonabile a quello dei principali competitor. Notizia positiva soprattutto dopo le indiscrezioni, le ipotesi che si erano fatte largo nei giorni scorsi di un totale azzeramento della cedola che avevano penalizzato il titolo all'inizio della settimana. Sì. Oggi quindi un'ipotesi migliore che possa spingere all'avvio alzo le quotazioni. Il gruppo dei bancari, perché al di là di Seat e Snam, male oggi le banche. UBI Banca pesante, meno 4,1, la Popolare di Milano meno 3,8, Banco Popolare meno 3,1, Unicredito meno 2,9, meglio altre Alleanza meno 3,1, meglio altre banche, perché non tutte sono necessariamente in calo, con l'eccezione forte appunto di Intesa San Paolo, più 2,3%. Sì, oggi le banche sono andate male soprattutto nella seconda parte della seduta, e quando è arrivata la notizia del bilancio, delle previsioni di bilancio del 2008 della britannica HBOS, che si è fusa con Lloyds TSB creando Lloyds Banking, e proprio Lloyds Banking ha annunciato che nel 2008 HBOS registrerà una maxi perdita di 10 miliardi di sterline. Quindi ovviamente un'altra si aggiunge questa notizia ai pesanti perdite accusati da altre banche britanniche e non solo, e hanno portato le vendite sul settore bancario di tutta Europa. Il sottoindice del comparto è stato quello che oggi ha registrato la peggiore prestazione, perdendo circa 1,5%. Ovviamente le vendite hanno colpito anche i titoli italiani. Allora, alcuni ascoltatori ci chiedono di parlare del settore delle materie plastiche, della chimica. Lo faremo una puntata sulla chimica quando la cronaca ci permetterà di respirare. Grazie per ora e buon fine settimana a Paolo Paronetto, Radio Coro, Il Sole 24 Ore. Alcuni contestano la mia affermazione sul beneficio per i lavoratori dipendenti, sì, se riescono a mantenere il posto di lavoro, capito? Cioè, non è che a questo punto anche voi datemi una mano ogni tanto. E infatti c'è chi scrive la buona notizia che è venerdì e per il weekend è previsto il sole. Ok, mettiamola così. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, puntata oggi quasi interamente dedicata ai dati economici europei, visto che sono usciti tutti i dati sui PIL, sul prodotto interno lordo dell'area euro, ma non solo, tutti col segno meno, lo ricordiamo, il trimestre sul trimestre, quindi quarto trimestre 2008 su terzo trimestre 2008, pesante la Germania e anche l'Italia e la Gran Bretagna, e negativi tutti i dati anche su quello che si chiama il tendenziale, cioè il quarto trimestre del 2008 rispetto al quarto trimestre del 2007, segno meno dappertutto, con l'Italia che guida la classifica con un meno 2,6%, e ancora l'Italia è l'unico paese che ha il segno meno sull'intero 2008, meno 0,9%, la peggiore frenata da 15 anni. Il 2008 si è chiuso con un segno meno che non si vedeva da 15 anni come intensità. Come se non bastasse, vista già la difficoltà anche nel condurre una puntata in cui le notizie positive sono rarissime, sono intervenuti poco fa da un lato il numero uno direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, che ha detto: gli effetti della crisi sull'economia reale per lo più devono ancora arrivare, e lo ringraziamo, ma vorremmo anche sapere cosa sta facendo il Fondo Monetario al di là dell'analisi in cui tutti sono bravissimi dopo, ma cosa fa il Fondo Monetario Internazionale per aiutare o per coordinare delle politiche e delle iniziative a sostegno dell'economia, visto che i soldi del Fondo Monetario ce li ha. Così come vorremmo sapere che cosa fa la Banca Mondiale, perché 10 minuti fa il presidente della Banca Mondiale, Robert Zoellick, ha detto La crisi finanziaria è pericolosa e anche di questo lo ringraziamo perché non ce ne eravamo accorti. Senza interventi può diventare una crisi umanitaria. La crisi da finanziaria è diventata economica e ha aumentato la disoccupazione. Senza interventi può diventare una crisi umanitaria perché questa crisi comporterà 46 milioni di poveri in più a livello globale. Lo ha fatto in un incontro a Roma che ha preceduto i lavori che si stanno per aprire dei G7 dei ministri economico-finanziari, di cui adesso parleremo. Sempre Zoelic ha detto: devono essere destinati alla lotta alla povertà fondi pari allo 0,7%. Anche a lui rivolgiamo lo stesso appello che al direttore generale del Fondo Monetario. Che cosa sta facendo la Banca Mondiale oltre a dirci che la crisi da finanziaria è diventata economica e può diventare umanitaria con 46 milioni di poveri in più? Noi non lo sappiamo, però regaliamo sia a Dominique Strauss-Kahn, ossia il Fondo Monetario, che a Robert Zoelic, il numero uno della Banca Mondiale, il nostro animale preferito che si è obiettivamente risvegliato. E così il gufo se lo beccano anche le due grandi istituzioni, appunto, in attesa di sapere cosa stanno facendo per far uscire il mondo, i paesi aderenti, dalla crisi. Le reazioni, dicevamo nella prima parte del programma, la Germania ha frenato moltissimo, più delle attese, meno 2% nell'ultimo trimestre, male le esportazioni in Germania, soprattutto quelle rivolte verso la Cina. Il PIL tedesco, tra l'altro, ha visto il calo più forte dal 1987, per cui anche questo è un dato significativo. L'unico paese che tecnicamente di quelli grandi non è ancora entrato in recessione è la Francia, che è riuscita a crescere nel 2008 dello 0,7%, ma diciamo il prossimo dato la porterà tecnicamente in recessione, ossia due trimestri consecutivi di calo. In una giornata, questi dati, in cui il Presidente del Consiglio Berlusconi, in una conferenza stampa a cui hanno partecipato altri ministri, poi sentiremo anche il Ministro Sacconi, ha annunciato l'accordo raggiunto con le regioni per tirare fuori complessivamente 8 miliardi di euro, 2 miliardi e mezzo saranno presi dalle regioni, dai fondi europei per le aree sottosviluppate, e gli altri 5 miliardi e 4 li metterà lo Stato per aumentare il fondo a disposizione della Cassa Integrazione. Sentiamo Berlusconi. Siamo arrivati alla bella somma di 8 miliardi destinati agli ammortizzatori sociali ove ce ne fosse bisogno. Ci auguriamo che non si debba arrivare ad avere bisogno di tutta questa somma. Quindi l'accordo raggiunto riveste una particolare importanza perché sancisce un livello di collaborazione che fino a questo punto non si era mai visto, e anche il principio che le responsabilità bisogna assumerle congiuntamente tra i diversi livelli istituzionali di fronte soprattutto a una situazione di crisi come quella in atto. Le istituzioni, quindi, da un lato noi, il governo e le regioni, credo abbiano dato davvero un'ottima prova di sé e hanno anteposto ad ogni difficoltà, le difficoltà esistono sempre, quella necessità che è apparsa a tutti evidente di fornire delle risposte concrete ed immediate a quanti più direttamente potranno essere colpiti dalla crisi. Quindi do atto del grande senso di responsabilità alle regioni per la responsabilità che hanno mostrato a misurarsi insieme con noi nel tentativo di avviare a soluzione i problemi dell'occupazione che sono stati generati da questa crisi che ha delle dimensioni che non sono ancora del tutto definite, ma a cui dobbiamo guardare e guardiamo con preoccupazione. Così il Presidente del Consiglio che, come avete sentito già, ha commentato anche l'accordo raggiunto con le regioni, di questo parleremo tra qualche minuto. Le altre reazioni, il leader dell'opposizione Walter Veltroni dice: il governo non vuole ammettere o ammette solo tardivamente che c'è la crisi. Avete sentito infatti Berlusconi dire che il governo è preoccupato e critica l'atteggiamento dell'esecutivo. Il governo fa finta che non esista e non ha nessuna iniziativa di... Noi domani presenteremo il nostro piano, quello che avrebbe dovuto fare il governo lo presentiamo noi, però non c'è neanche il cuore. Vede, la cosa che mi impressiona è che il Presidente del Consiglio viene qui, racconta barzellette, descrive un mondo che non c'è, perché il mondo di questo Paese purtroppo è un mondo di sofferenza, di preoccupazione, di inquietudine, che è molto diffusa ormai in tutto il territorio nazionale. E ha chiesto iniziative più forti, politiche forti contro la crisi anche il leader della CGIL Guglielmo Epifani durante la manifestazione dei metalmeccanici e dei lavoratori pubblici a Roma, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta. In tutta Europa e anche in tutto il mondo i governi fanno politiche molto forti attraverso la riduzione del fisco, gli incentivi alle imprese, il sostegno ai redditi dei lavoratori e dei pensionati, una politica industriale, spese per infrastrutture, per la formazione. Il nostro governo no. Allora, possibile che sbagliano tutti? E poi Epifani ha anche proposto di aumentare la tassazione sui redditi superiori ai 150.000 euro e utilizzare quel 1,5 miliardi che dovrebbe entrare in più per i redditi più bassi. Alcuni di voi ricordano i problemi del debito che ha l'Italia, ne abbiamo parlato nella prima ora del programma. Uno dei motivi, probabilmente il principale, per cui l'Italia ha maggiori difficoltà nel mettere in piedi un pacchetto di aiuti è che noi dobbiamo tenere sotto controllo il deficit e il debito pubblico, lo abbiamo detto decine di volte, altrimenti l'Italia rischia di avere un problema nel rifinanziare il proprio debito, e l'Italia non può permettersi, in un periodo in cui tutti gli stati sovrani vanno a chiedere soldi sul mercato, di avere un rating, un voto, un'affidabilità più bassa. Questo è il motivo principale per cui il ministro Tremonti sta molto attento a allargare i cordoni della borsa. Di nuovo in diretta, vedo che alcuni concordano sul non l'ottimismo, ma su alcuni elementi positivi di questa crisi, che tutto è tranne che positiva, le citavamo prima. Un ascoltatore ci scrive che la sua rata del mutuo, dopo aver sfiorato i 1.500 euro a dicembre, adesso è scesa a 1.000 euro. I tassi sono bassissimi, sono a livello zero quasi, reale al 2%, le banche dovrebbero adeguarsi. Insomma, l'inflazione è infrenata, per cui da quel punto di vista un po' di recupero o mantenimento di potere d'acquisto per il lavoro salariato dovrebbe arrivare. L'accordo raggiunto, 8 miliardi, lo avete sentito dalla voce del Presidente del Consiglio, accordo raggiunto per quello che riguarda il fondo per la cassa integrazione e altre forme di ammortizzatori sociali. Dino Pesola del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, ascoltiamo intanto il ministro Tremonti, che nel corso della conferenza stampa di oggi ha ribadito come fosse corretta la decisione di non detassare le tredicesime. Fare cose normali in un periodo anormale è fare una cosa straordinaria. E alla domanda cosa fate, garantiamo la sanità, la sicurezza, le pensioni e in questa fase un fortissimo potenziamento del meccanismo degli ammortizzatori sociali. Voi dite dovrebbe fare la domanda per beni di consumo, tipo la scelta che c'è stata insistentemente chiesta sulle tredicesime? Credo che sarebbe stata una scelta non giusta, e non essendo giusta non l'abbiamo fatta. Noi crediamo che il governo debba concentrarsi sui fondamentali etici, fondamentali dell'azione governo. Tra questi la solidarietà sociale e, nella meccanica, nella logica della solidarietà sociale, gli ammortizzatori sociali. E quindi il ministro Tremonti, Dino, ha ribadito che detassare le tredicesime, se ho ben capito il ragionamento, avrebbe portato meno soldi nelle casse dello Stato, senza dare però la certezza di un aumento dei consumi. Altra cosa invece è garantire la cassa integrazione agli operai messi in esubero. Dino. Sì, in più bisogna dire che l'eventuale decisione di detassare le tredicesime, che ricordo sarebbe costata intorno ai 6 miliardi di euro, sarebbe stata tutta da coprire, mentre qui si tratta di 8 miliardi che erano già nel bilancio dello Stato, e l'accordo che è intervenuto questa notte fa sì che possano essere in qualche modo utilizzabili e spendibili. Quindi non si tratta di risorse aggiuntive che caricano negativamente sui conti, si tratta di trovare un meccanismo per renderli spendibili. Osservato questo, credo che il ministro Tremonti abbia ragione, cioè la detassazione delle tredicesime sarebbe stato un intervento costoso una tantum e probabilmente a valere solo sulla fine dello scorso anno. Poi resto dell'idea che è tutto da dimostrare, che se tu detassi le tredicesime quei soldi in più vengano spesi e facciano ripartire i consumi, perché uno in questo periodo li può mettere giustamente in banca o sotto il materasso. Altra cosa è invece garantire ai lavoratori che dovessero essere in esubero la cassa integrazione, perché quelli sono soldi che uno che servono per vivere, non so come altrimenti spiegare il concetto. So che questa cosa farà arrabbiare invece alcuni ascoltatori, ma da un punto di vista economico non c'è nessuna certezza che ridurre il peso fiscale in un periodo come questo significhi aumentare poi i consumi. Comunque sentiamo il ministro Sacconi nel commentare l'accordo raggiunto con le regioni per arrivare a 8 miliardi complessivi di fondo per gli ammortizzatori sociali, di cui 2 miliardi e mezzo verranno presi proprio dai fondi europei per le regioni e per le aree sottosviluppate. Non è la riforma degli ammortizzatori sociali, però è per certi aspetti anche qualcosa di più, perché è immediata, è immediatamente operativa, è mirata, è costruita su questo ruolo importante delle regioni dialoganti con le parti sociali del territorio. Penso soprattutto una soluzione tempestivamente efficace. Pensate se dovessimo fare la riforma degli ammortizzatori sociali cosiddetta, a parte gli impegni di lunghissimo termine che questa comporterebbe in un lungo periodo in cui noi non sappiamo cosa accadrà delle economie e della finanza pubblica, ma soprattutto cosa andremo in Parlamento ora con una legge delega per poi fare successivamente i decreti delegati e forse all'inizio dell'anno prossimo essere pronti con qualcosa. Qui siamo immediatamente operativi e su una platea potenzialmente ampia di lavoratori, sperando che poi ovviamente queste risorse non servano, che l'auspicio è che alla fine si possa dire abbiamo scherzato, non era così necessario. È chiaro che tutti si augurano che questi soldi non servano tutti, perlomeno, cioè che la cassa integrazione non arrivi a costare 8 miliardi. Sull'accordo raggiunto nella notte con il governo, il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto il presidente della Regione Emilia-Romagna, che è anche presidente della conferenza Stato-Regioni, Vasco Errani, chiedendogli quali saranno adesso i prossimi passaggi. In primo luogo adesso dobbiamo definire l'accordo quadro con la verifica delle cifre, perché i 2 miliardi e 6 che devono mettere le regioni è un obiettivo che va verificato rispetto alle reali disponibilità del Fondo Sociale Europeo. La seconda cosa che bisogna fare rapidissimamente, perché siamo già in ritardo, noi è da ottobre dello scorso anno che abbiamo fatto queste proposte, bisogna andare a fare una verifica immediata con la Commissione Europea, onde evitare che siano problemi nella rendicontazione del Fondo Sociale Europeo. Dopodiché si parte e si deve partire al più presto, perché il problema di questi lavoratori non c'è domani, c'era ieri, c'è già da ieri e dall'altro ieri. E il giudizio è positivo sull'accordo raggiunto tra Stato e Regioni anche per la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, un fatto estremamente positivo per il Paese, dimostra un grande senso di responsabilità da parte delle Regioni e va dato atto al Governo, così come chiesto anche da Confindustria, ha detto la Marcegaglia, di essersi impegnato a stanziare ulteriori risorse. Poi la Presidente di Confindustria ha chiesto a questo punto di andare avanti e per fornire sostegno a tutte le imprese convocare un nuovo tavolo con le parti sociali. Dino Pesole, questo era un passaggio atteso. Potranno uscire altri soldi contro la crisi e soprattutto potrà emergere dal vertice del G7 che sta iniziando a Roma, dei ministri economico e finanziari, qualche elemento di maggior coordinamento? Beh, che ci siano altre risorse nell'immediato mi sembra difficile. C'è una cosa da aggiungere rispetto all'intesa raggiunta con le regioni. Le regioni hanno portato a casa una parte dell'accordo non indifferente, cioè l'esclusione delle spese per investimento dai fondi europei dal patto di stabilità interno. Questo vuol dire che in qualche modo potranno avere un po' più di disponibilità. E c'è la partita con l'Europa, Errani ne faceva cenno poc'anzi, in effetti bisognerà valutare con l'Unione Europea, con la Commissione, la congruità sui vincoli di destinazione che questi fondi avrebbero, perché dovrebbero essere fondi destinati in prevalenza alla formazione. Quanto al G7 di questa sera, beh, questo è un mega vertice alla fine, si prefigura come una specie di conclave in cui ci sono non soltanto i ministri e i governatori, ma c'è la Banca Mondiale, c'è l'OCSE, c'è la BCE, c'è la Commissione, insomma è una specie di conclave, come dire, per cercare di individuare qualche ricetta condivisa sulla crisi, sì. E spicca questa proposta del governo italiano, adesso non so bene quale esito possa avere, comunque quella di fissare il cosiddetto legal standard, vale a dire un sistema giuridico, legale, un insieme di regole cui tutti dovrebbero attenersi in modo da, come dire, costruire almeno un tessuto di regole comuni che possano in qualche modo consentire ai singoli paesi di affrontare la crisi in modo uniforme. E poi c'è l'altro aspetto fondamentale, che si tratta di individuare, diciamo, azioni comuni per contrastare le spinte protezionistiche in atto. Vedremo come andrà a finire questa sera la cena di gala, domani si entra nel vivo, se è un conclave, Dino, speriamo che la fumata sia bianca e non grigia. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore, grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Filippo Reggi per la regia, da Sebastiano Barisoni e voi tutti in ascolto, l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.